Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Abbiamo mai iniziato una puntata di Möbius parlando di acqua calda? Lo faremo questa sera. Benvenuti e benvenute a Möbius e adesso i titoli di questa puntata. Quanto ci costa lavare le mani in termini energetici? Lo hanno calcolato le alunne della quarta A del liceo scientifico di Sacile. Poeti, scrittori, filosofi hanno spesso parlato del caso e del caos, due categorie che sono anche al centro del pensiero scientifico. LHC a Ginevra è tornato a lavorare ad alto livello, anzi, tenta un record. Collisioni di particelle a un'energia di 7 tera electron volt. Un accordo tra il Ministero dei Beni Culturali e Google porterà online 1 milione di testi italiani non protetti da copyright. È un passo importante nella titanica impresa di trasferire in digitale il nostro patrimonio culturale. Esiste una stretta relazione tra sonno e risposta immunitaria. Più dormiamo, meglio stiamo, e viceversa, se siamo malati, anche il sonno ne risente. La nostra mente davvero influenza ciò che avviene nel nostro corpo. Dai, laviamoci le mani, Federico. Ecco qua, sì, tra l'altro è una pratica che è molto consigliata perché pare che eviti il 60% delle probabilità di contagio adesso che c'è un sacco di febbre. Sì, questo è vero, però c'è un dispendio energetico non indifferente, lo sai? Tu ti stai riferendo al fatto che io mi sto lavando con l'acqua calda. Ti stai lavando con l'acqua calda e per più di 10 secondi. E per più di 10 secondi invece se giro di là diventa fredda e dirai perché non te le puoi lavare così. Adesso andiamo in studio e c'è una classe di alunne che ci spiegherà in realtà il vero dispendio energetico che c'è nel prolungato lavarsi le mani. Mi asciugo e vengo. Ecco Chiara, non un'intera classe, sono due. Esatto, abbiamo qui in studio due studentesse della quarta A del liceo socio-psicopedagogico di Sacile, Anna e Annika. Buonasera! Salve! E poi abbiamo anche il professore. Che le ha curato questa ricerca. Che ha curato la ricerca. Il professore di fisica Ruggero Da Rossa, buonasera. Buonasera. Va bene, però cominciamo dalle ragazze che ci spiegano cos'è questa ricerca. Annika, allora da questa sperimentazione che cosa avete scoperto? Abbiamo calcolato che lavandoci le mani per 10-15 secondi con l'acqua calda equivale a tenere una lampadina accesa, una lampadina a basso consumo energetico accesa per 12 ore. Ah, però. Questo perché lavandoci le mani per questi determinati secondi consumiamo circa 220 watt per all'ora. Una lampadina a basso consumo della cucina oppure del salotto consuma circa 18 watt all'ora, che quindi equivale a 12 ore di accensione. Si è guardato quanto metano si è consumato per lavarsi le mani quei 10-15 secondi. Mm. Il contatore del metano segna i millesimi di metro cubo, quindi segna anche i piccoli consumi e guardando quanto si consuma registrando, lavandosi le mani quei 10-15 secondi, un normale lavaggio delle mani. Sì. Di solito si aspetta che arrivi l'acqua calda, almeno in periodi freddi soprattutto, e poi ci si lava normalmente le mani col sapone e si richiude. Si guarda prima e dopo, si fa la differenza e sapendo che un metro cubo di metano equivale a 10 kWh, si moltiplica quei 0,022 per 10, sono 220 watt, che rapportati al consumo di una lampadina, a quello che c'è in cucina adesso a basso consumo, che sono intorno ai 18-20 watt, facendo il rapporto si vede che il consumo di lavarsi le mani equivale a quello di una lampadina per 12 ore accesa, insomma. Quindi forse varrebbe la pena lavarsi sempre con l'acqua fredda, via. Ma diciamo che non è che credo che ci siano momenti in cui questo non si può fare, però che uno almeno si renda conto che l'acqua calda consuma tanta energia, questo forse è la cosa il messaggio che vorrebbe dare con questa osservazione, perché è chiaro che insomma quando fa freddo non sempre ci si può lavare le mani con l'acqua fredda, però ci sono momenti magari in metà stagione in cui si può tranquillamente fare e comunque essere consapevoli che aprire l'acqua calda consuma molto di più che accende una lampadina, per cui magari poi spegniamo la luce in camera perché dice guarda siamo accesa un'ora e poi lasciamo aperta l'acqua calda tranquillamente anche 10 secondi e si consuma molto molto di più dal punto di vista di inquinamento. Beh, certo che questi confronti energetici in effetti lasciano stupefatti e non l'avremmo mai detto, insomma. Anna, poi voi siete molto impegnati su questo fronte, avete fatto altre misurazioni dal punto di vista del risparmio energetico, no? Sì, è così. Abbiamo anche visto quanto il costo del riscaldamento incida rispetto a quello dell'elettricità e si è visto che per l'illuminazione delle lampadine, quindi, il consumo è di circa il 2%, mentre per quanto riguarda l'acqua corrente e il riscaldamento è dell'84%. Ah. Quindi è proprio una fetta molto notevole rispetto a quella che è l'elettricità. E per quanto noi è più facile che badiamo quindi a spegnere le lampadine e a staccare le spine degli elettrodomestici, dovremmo invece accorgerci maggiormente di quelli che sono i costi dati appunto dal riscaldamento e dall'acqua calda, che appunto incidono molto di più su quella che è la bolletta. Quindi piccoli gesti quotidiani, anche solo abbassare la temperatura di casa di un grado, equivale a un risparmio del 10%, quindi non poco. Quello che noi dobbiamo sempre ricordare, lo facciamo spesso in trasmissione, è come tante cose del risparmio energetico siano legate a piccole quantità che però diventano immense perché siamo milioni di persone, no? Esatto. E comunque voi facendo questo tipo di lavoro, questo tipo di esperimenti in classe, poi dopo anche andando a casa, insomma, siete un po' più sensibili su questi temi. Certo, perché valutiamo appunto noi stessi le nostre bollette e anche aiuta anche a sensibilizzare i nostri genitori che magari insomma non se ne intendono e si lasciano a quelli che sono i contratti con le varie fonti di gas eccetera, invece appunto sensibilizzare anche proprio nel concreto, a valutare anche guardando i contatori e tutto, aiuta anche proprio le persone a rendersi più consapevoli di quelli che sono i consumi e di come migliorare sia i costi che anche quello che è il riscontro ambientale, un risparmio in tutti i sensi. Certo che se tutti i professori di fisica e tutte le classi facessero questo, il risultato sarebbe moltiplicato per tutti gli alunni, per tutti i genitori, e sarebbe veramente un risultato formidabile. Forse Anna aveva fatto un'osservazione anche interessante sull'uso, sulle case clima che avevamo fatto insieme. Prima diceva che se Anna vuole introdurre questa cosa potrebbe essere interessante anche per gli ascoltatori questo discorso di introdurre nelle bollette la tabella. Sì, praticamente la certificazione energetica è stata anche appunto valutata da noi stessi studenti attraverso un banale calcolo, ovvero dividendo quelli che sono i metri cubi annui di metano fratto quella che è la superficie riscaldata della nostra abitazione, e moltiplicando il risultato per i 10 kWh si ottiene quello che è appunto il valore della classificazione energetica. Quindi si è visto che una media statistica, insomma, le case consumano intorno a 100 kWh su un metro di superficie annui, e quindi si classificano nella certificazione energetica nella fascia D, che è tutto sommato sì, media, mentre ad esempio le case costruite negli anni 60 hanno un dispendio energetico, quindi non superiore, sono ben isolate, certo, e consumano anche molto di più, mentre certo, quelle ovviamente più moderne che si adoperano anche di essere ben isolate equivalgono quindi anche a valori della fascia A e B. Una classe certo, energetica superiore. Sì, sì, si può passare da 280 kWh a metro quadro a 14-15, quindi una diminuzione impressionante. Il quadro è chiaro, direi. Anna, Annika e professore, tanti auguri per altre ricerche. Grazie, buon lavoro anche a voi. Ragazze, buon lavoro. Grazie a voi. È vero o no che siamo da sempre ammirati constatando la prodigiosa capacità che molte lucertole hanno nel farsi ricrescere la coda? Ne perdono un pezzo per i motivi più vari, comprese certe battaglie che fanno tra loro e con alcuni predatori, e poi nell'arco di pochi giorni l'arto prende a ricrescere. Beh, non è tutto rose e fiori come abbiamo da sempre immaginato. Il trauma della coda mozzata produce degli effetti sulla genetica delle lucertole. è il dato che emerge da una ricerca svolta in Australia da Mats Olsson della Università di Wollongong. E ad essere colpiti dall'evento negativo sono i telomeri, quelle porzioni di DNA che chiudono i cromosomi, sono come dei piccoli tappi. La loro funzione è determinante perché sono i telomeri che conservano l'informazione contenuta nei cromosomi quando si ha la loro replicazione nella creazione di nuove cellule. E sappiamo anche, tuttavia, che ad ogni replicazione i telomeri subiscono un lieve accorciamento. Non stiamo parlando solo delle lucertole, ma di tutti gli esseri viventi. Con il passare del tempo questa riduzione si fa sentire come un fattore che altera la trasmissione di informazione e si ha quindi il processo di invecchiamento del corpo. Quello che Mats Olsson e il suo gruppo hanno scoperto è che lo stress della perdita della coda innesca una riduzione significativa della lunghezza dei telomeri. Il risultato è, insomma, che la lucertola vive meno a lungo. Il fenomeno colpisce maschi e femmine, ma in particolare i maschi e soprattutto quelli più prestanti, perché in quanto tali sono più visibili e più attaccati quindi dai predatori e possono quindi più facilmente perdere la coda, e poi sono maggiormente impegnati nel difendere il loro territorio da maschi più piccoli, e qui ci risiamo in questi scontri, in queste battaglie. Perdere la coda è più facile. Merita aggiungere infine un particolare poco noto a molti di noi ed è il seguente. La ricrescita della coda non è la ricrescita di un arto normale. Nella nuova coda non ci sono ossa, per esempio, ma solo cartilagini, e questo significa anche che non è possibile una seconda perdita. La coda, insomma, non ricresce tutte le volte che si vuole. Perché comunque si ha questo accorciamento dei telomeri cui prima si accennava? L'origine dell'alterazione non è certa, ma appare altamente probabile che sia lo stress globale della perdita della coda ad agire come fattore scatenante. Come dire, insomma, la coda è qualcosa alla quale ci si affeziona e perderla non fa certo piacere. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo nella tipologia domanda molto rapida per il gioco di oggi. Sta arrivando il nostro quiz. Domanda: c'è qualcosa di più liquido dell'acqua? Prima risposta: no, non esiste, e quindi ci scriverete no. Sì, molti liquidi sono più liquidi dell'acqua, ci scriverete sì, e questa è la seconda possibilità. Terza e ultima: c'è solo l'acqua ossigenata, e ci scriverete ossigeno. Dove scriverete? Con il solito SMS 349-238-6666. Il libro in palio questa settimana è La matematica bellezza, John Nash e la teoria dei giochi, è scritto da Tom Siegfried ed edito da Bollati Boringhieri. In collaborazione con IBS.it. E qui con me in studio Maria Rosaria Rovinella. Ci diamo del tu perché siamo praticamente colleghi. Tu frequenti questo durissimo master biennale dello IULM, il master in giornalismo. Detto bene, durissimo. Fate un sacco di lavoro e ogni tanto arrivate qua in trasmissione per portare del lavoro che avete fatto, e oggi con te parliamo di caso e caos, che tu hai indagato estraendo dalla produzione umanistica di filosofi e letterati, no? Ha indagato tirando fuori delle frasi, dei brevi pensieri. Sì, no? È un tema ricorrente in tutta la cultura occidentale, e quindi sono notevoli sia per numero che per interesse gli aforismi che molti studiosi hanno prodotto su questo binomio caos e caso. È con noi ospite questa sera Giuseppe Longo. Buonasera Longo. Buonasera a tutti. Filosofo, però anche filosofo della scienza, però anche autore, narratore anche di teatro, e oltretutto con una derivazione originaria di ricercatore scientifico, no? Se non vado errato. Io ho fatto per molti anni ricerca nel campo della teoria dell'informazione, la teoria dei codici algebrici, quindi ho una preparazione scientifica, come dire, anche se un po' lontana nel tempo, perché l'età quella che è, ma insomma però rimane uno dei miei riferimenti fondamentali. E quindi ci è sembrato il personaggio più adatto per analizzare in modo trasversale questi collegamenti tra pensiero, diciamo così, umanistico in modo molto semplicistico e invece pensiero scientifico. Ecco, Longo, la prima cosa che volevamo chiederle è: queste due categorie, caos e caso, sono figli adolescenti del pensiero scientifico, sono entrati nella lunga storia del pensiero scientifico, sono entrati negli ultimi anni, negli ultimi decenni, no? Beh, diciamo che il caso è entrato nella scienza molto prima rispetto al caos. Sì. Diciamo che la scienza e la filosofia hanno sempre guardato al caso in passato con una certa diffidenza. Il caos poi era una cosa molto, molto fumosa, ma appunto molto caotica. Caos in greco vuol dire fenditura, abisso. E il caso è sempre stato guardato con grande sospetto, perché i greci, razionali come erano, e noi abbiamo ereditato questa loro razionalità, avevano, come dire, la necessità psicologica e cognitiva di ricondurre tutto a un ordine deterministico piuttosto rigido, si basavano sul principio di causa-effetto. E poi col tempo naturalmente è inevitabile rendersi conto che il caso governa molte delle nostre vicende umane e che deve essere considerato in qualche modo anche come dire, un produttore di eventi, e quindi la scienza ha dovuto farci i conti. E nel 600, a cominciare da Pascal, poi con i Bernoulli e poi con lo stesso Laplace, che più determinista di lui non si può dare, hanno dovuto fare i conti col caso. Quindi il caso è passato, diciamo, dai tavoli verdi del gioco, delle carte, dei dadi, è passato anche nei trattati scientifici. Quindi si è creata questa curiosa locuzione, le leggi del caso, come la scienza volesse in qualche modo esorcizzare questa imprevedibilità associata al caso con delle leggi che sono quelle scientifiche tipiche, diciamo, della fisica, in cui la prevedibilità è l'istanza fondamentale. Soltanto negli anni 30, se vogliamo, che una teoria pura delle probabilità ha cominciato ad essere costruita. Il caos invece è più recente, no? Il caos è molto più recente, sì. Perché il caos nasce, diciamo, o entra nel panorama scientifico a partire dagli anni 60, se vogliamo, quando il meteorologo Lorenz, Edward Lorenz, si accorge che ci sono dei processi iterativi che lui simulava al computer, molto elementari, che però producono degli effetti estremamente interessanti. E il caos comincia ad essere osservato dal punto di vista scientifico, e si dice che un fenomeno, un sistema, ha un comportamento caotico se, diciamo, ha un andamento, come dire, imprevedibile. Se le condizioni iniziali, modificandosi anche di pochissimo, portano a sviluppi molto diversi da loro, quindi c'è questa grande sensibilità alle condizioni iniziali che è stata espressa nella locuzione effetto farfalla, se vogliamo. Senta, Longo, incominciamo con due frasi, una di Nietzsche e una di Henry Adams, sentiamole. Bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante. Il caos spesso genera la vita, laddove l'ordine spesso genera l'abitudine. La frase di Nietzsche è estremamente importante, quando lui dice che è il caos che in qualche modo ci fa partorire una stella danzante, cioè un'idea, un concetto, qualche cosa di poetico, di illuminante, no? Perché la stella deve illuminare. E dice una cosa molto profonda. Io ricordo che il grande matematico Norbert Wiener, quando era corto di idee, si metteva davanti a una tenda bianca mossa dalla brezza, e questo movimento caotico, appunto, non deterministico, casuale, aleatorio della tenda, evidentemente si innestava nel suo cervello e produceva delle fluttuazioni cerebrali che poi in qualche modo potevano dar luogo a un'idea creativa. E la frase di Adams, questo scrittore americano dei primi del Novecento, è anche molto interessante. È vero che il caos spesso genera la vita, perché rendiamoci conto che il determinismo comporta una ripetizione quasi demenziale delle cose, no? Quindi se non c'è il clinamen, come lo chiamava Lucrezio, cioè la deviazione, quindi la casualità, l'aleatorietà, non c'è produzione di novità, non c'è la storia, non c'è la vita. E poi, dottor Lungo, non so se lei è d'accordo, potremmo dire che queste frasi di Nietzsche, ma anche quella di Adams, ci rimandano a loro volta a delle, come dire, concezioni filosofiche che comunque i due, il filosofo e lo storico, avevano, in quanto ad esempio nella frase di Nietzsche noi potremmo rivedere, no, quel concetto di volontà di potenza che poi è stato un po' trasfigurato, ma che in realtà poneva proprio nel caos la sua possibilità di venire fuori, cioè l'uomo che con la volontà di potenza si erige al di sopra del caos e quindi impone i propri significati, la propria volontà, al di là di quelle che poi sono le costruzioni metastoriche. Quindi il caos è anche il terreno dove l'uomo può portare, insomma, fuori una volontà di potenza positiva. Questo è certamente vero, anche perché di fronte al caos noi o adottiamo un atteggiamento, come dire, fatalistico, vabbè, dice è tutto caotico, non ci posso fare niente, oppure con questa sorta di atteggiamento superomistico, se vogliamo, no, titanico, cerchiamo di dominare il caos imponendo in qualche modo una regola, un ordine, cercando di interpretare questi fenomeni caotici e trasferendoli a un livello superiore dove possiamo dominarli, no? Quindi sicuramente è vero. Per tornare alla frase di Adams, è vero che il caos genera la vita, quindi c'è questa generazione di novità, e l'ordine spesso genera l'abitudine, però bisogna anche dire che l'ordine è salvifico e l'abitudine è una grande forza economica, perché se noi ogni volta di fronte a un fenomeno dovessimo usare della creatività, dovessimo usare, come dire, delle leggi che dobbiamo foggiare lì sul momento, beh, saremmo perduti. Noi dobbiamo ricorrere all'abitudine, agli schemi mentali. Naturalmente se esageriamo andiamo a finire veramente Diciamo che se esageriamo rischiamo di cadere in quello che poi diciamo è anche un po' la critica che Hume faceva, no, al principio di causa-effetto, cioè a furia di aspettarci sempre una determinata causa-effetto entriamo in uno stato d'animo soggettivo di attesa, una sorta di orizzonte nel quale poi ci aspettiamo sempre il medesimo effetto e entriamo in un orizzonte d'attesa che poi è più soggettivo che come dire, scientifico, razionale. Certo, noi dobbiamo sempre operare un compromesso tra due opposte tendenze. Da una parte, diciamo, vogliamo essere rassicurati che il mondo ha una sua stabilità, però nello stesso tempo dobbiamo anche evitare di cadere in questa fossilizzazione che conduce poi praticamente alla morte, come dire, anche in senso psicologico, per cui le cose si ripetono sempre uguali. Sentiamo altre due frasi, una di Hannah Arendt e l'altra di Elie Wiesel. A differenza della natura, la storia è piena di eventi. Il miracolo del caso e dell'infinitamente improbabile vi ricorre con tale frequenza da far sì che parlare di miracoli sembri assurdo. Non credo al caso. Nella storia ci sono soltanto degli incontri. Il caso non esiste. Ecco, nella frase di Hannah Arendt c'è una verità e c'è, come dire, anche un po' una svista, se vogliamo, no? Che la storia sia presente e sia gremita di eventi e quindi di singolarità, di casualità, di aleatorietà, questo è sicuramente vero. Sono un po' meno d'accordo che nella natura non vi siano queste casualità, che la natura comprende anche la biologia. Naturalmente noi sappiamo benissimo che in biologia ci sono delle improbabilità che si trasformano in certezze soltanto a posteriori, quindi, come dire, non c'è tanta differenza tra la storia degli uomini e la storia della vita, forse solo di grado, ma non certamente di qualità. E anche nel caso della natura inanimata noi stiamo scoprendo poco a poco che anche le leggi della fisica sono in fondo delle leggi statistiche. Non dimentichiamo poi che il caso che Laplace voleva esorcizzare in maniera totale dicendo che se ci fosse un'intelligenza infinita questa sarebbe capace di vedere le cose nel loro sviluppo deterministico, beh, il caso invece si annida proprio nei ventricoli piccoli oscuri della materia. Con la meccanica quantistica abbiamo capito che c'è una casualità di fondo che non può essere ineliminabile. Ecco. Per quanto riguarda la frase di Wiesel, beh, io credo che questa sia, cioè io non sono d'accordo quando lui dice che nella storia ci sono soltanto degli incontri, il caso non esiste. Beh, gli incontri sono molto spesso incontri casuali. Non dimentichiamo che chi pretende che il caso non esista vuole essere, come dire, il capitano della propria nave, cioè è terrorizzato dal fatto di essere soggetto a qualche cosa di imprevedibile. E questa è un'esigenza psicologica che si può capire, ma che si deve in qualche modo controllare. Longo, ci fermiamo qua con Caos e Caso. Pubblicheremo sul sito una serie di altre frasi. Ce n'è una molto carina, Maria Rosaria: è difficile adattarsi al caos, ma è possibile. A quella di Vonnegut. Quella di Vonnegut, che mi sembra molto bella nello spirito di questo strano e interessantissimo scrittore. Ce n'è anche una di Trilussa che non è male. Il caso ci protegge più di qualunque legge. È bellissima, molto bella. Questa. Molto bella di questo scrittore. Perché, specialmente di questi tempi di regina, che ci protegge. Esatto. Per fortuna che c'è il caso che ci difende dall'eccesso di leggi, esatto, e dalle loro storture. Grazie Longo. No, grazie a te Federico, grazie a Maria Rosaria. Grazie. È stato un piacere parlare con voi. A presto. A presto. A presto, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Chiamo subito il nostro ospite Paolo Giubellino. Buonasera Giubellino. Buonasera. La troviamo in un aeroporto, ci ha detto, in partenza per gli Stati Uniti. Sono a Ginevra, abbiamo finita la partenza dell'esperimento. Stamattina mi avvio verso gli Stati Uniti, perché che è un po' la vita che fate. La nostra vita, nel senso che gli esperimenti sono fatti da grandi collaborazioni che sono un po' dappertutto nel mondo, e quindi viaggiare tra tutti questi laboratori fa parte della vostra attività. Giubellino, lei si è già introdotto praticamente da solo, ha citato il CERN di Ginevra, la grande macchina, l'LHC, che noi seguiamo da vicino in tutti i suoi vari passaggi. Lei è un fisico del CERN e credo che lei fosse presente martedì quando c'è stata il raggiungimento della mezza potenza di questa grande macchina. È stato un momento abbastanza emozionante, credo. Estremamente emozionante, perché insomma noi stiamo lavorando su questo progetto da esattamente 20 anni. Io ho cominciato a lavorare un mese più mese meno esattamente 20 anni fa, e quindi puoi immaginare l'aspettativa di sono parecchie migliaia di scienziati, siamo tra seconda di come si vuole calcolare, ingegneri eccetera, siamo tra 5 e 10 mila, diciamo, veramente tanti, che sì, lavorano da 20 anni e che finalmente vedono partire il loro bambino, quindi è un po' come, non so, vedere partire la missione Apollo, certo, dopo che ci sia lavorati 20 anni, insomma. Ecco, ma senta Giubellino, questa mezza potenza è comunque tantissimo rispetto a quello che si aveva fino ad oggi. Guardi, tantissimo per quanto riguarda le collisioni fra protoni, che sono quelle che stanno in corso in questo momento, perché comunque più del triplo del massimo che si fosse mai ottenuto, e che era l'acceleratore di Chicago al Fermilab. Per quanto riguarda più specificatamente l'esperimento che dirigo io, che è Alice, che si ha come obiettivo primario le collisioni fra nuclei, la macchina più energetica che esista al mondo al momento è a New York, a Brookhaven, e questo, l'energia dell'LHC che ci darà i fasci di quest'autunno sarà 15 volte quella della più potente macchina americana, quindi il salto sarà enorme addirittura, certo. Quindi siamo estremamente ottimisti, diciamo, sul fatto di trovare delle cose molto di avere delle risposte davvero innovative a tante delle domande della scienza moderna, perché effettivamente il salto è molto grande. È molto grande. Ecco, senta Giubellino, gira già una voce molto interessante. Allora, diciamo, in queste macchine praticamente, sì, in questa grande macchina si producono degli scontri di materia a livello particellare, e da questi scontri si liberano a livelli energetici molto elevati delle grandi informazioni sulla natura fondamentale della materia e dell'universo, e bisogna quindi raggiungere queste energie. Circola già voce che ieri voi abbiate visto, diciamo, dentro questi scontri sono un po' come delle aperture di coperchi di scatole dentro le quali si vedono delle cose. Sembra che già abbiate visto degli oggetti molto colorati e interessanti, che naturalmente studierete più avanti, no? Però assolutamente, e devo dire è già stato veramente entusiasmante fino dalle primissime immagini proprio visuali che ho avuto degli eventi, perché si vedeva così direttamente a occhio che si entrava in qualche cosa di completamente diverso. Era un po' come essere sulle caravelle di Colombo e cominciare a vedere, a intravedere una costa in lontananza. Certo. È chiaro che per avere dei risultati, diciamo, che si possano trasmettere al pubblico, questo richiederà qualche tempo, ma non molto, nel senso che i primi risultati io me li aspetto già nell'arco di qualche giorno. È chiaro che poi man mano le cose più complesse richiedono mesi, anni, ma qualche cosa si comincerà a vedere apparire nell'arco di qualche giorno, e quindi insomma l'emozione non forte. Facciamo anticipazioni perché non è corretto nei confronti dei colleghi, ma comunque le cose sono molto vincenti. Sono molto vincenti. Ma tra l'altro mi permetto una piccolissima correzione, nel senso che io, come tanti altri italiani, lavoro sì una parte del mio tempo al CERN, sono basato in Italia all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e quindi sono a tutti gli effetti italiano come certo. ricercatore, nel senso che la mia partecipazione al CERN si basa sull'attività che si fa, che facciamo a Torino, e non sì. e al CERN la mettiamo in comune con gli altri, con altri che vengono da altri posti, ma certo. la mia base resta l'Italia, diciamo. Ecco, però Giubellino, noi dobbiamo farle i complimenti, perché con lei l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, raggiunge un terzetto di personaggi che lì al CERN però sono diventati responsabili degli 3 esperimenti fondamentali, no? Effettivamente è una coincidenza molto significativa, nel senso che l'Italia ha sempre avuto un ruolo di primo piano in realtà nella fisica nucleare, prima delle particelle, poi insomma abbiamo una tradizione sì. di molti decenni, insomma da Fermi in poi, in qualche maniera, ma anche l'Italia ha avuto un ruolo importante, e ha avuto un ruolo che si è poi consolidato nell'esistenza proprio di questa istituzione, che è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è considerato davvero un modello anche di funzionamento di un ente che riesce a dare gli strumenti per fare delle ricerche a livello dei massimi laboratori mondiali, restando in Italia. Io faccio un po' parte di un'intera generazione di persone che sono alla fine degli studi, sono partite, sono andate chi negli Stati Uniti, io negli Stati Uniti in particolare, altri in Germania, in Inghilterra, eccetera, ma poi sono tornati in Italia perché tutto sommato l'INFN ci offriva delle opportunità di lavorare che erano ad alto livello, che sono migliori di quelle di molti altri laboratori e strutture nel mondo, e quindi in qualche modo questo era quello che ci riportava a casa. E il fatto che poi 20 anni più tardi ci si trovi che collaborazioni internazionali in cui ci sono, perché a queste grandi collaborazioni partecipano tutte le grandi istituzioni scientifiche che noi additiamo come modelli, dall'MIT a Berkeley, a Heidelberg, a Oxford e via discorrendo, a seconda degli esperimenti. Il fatto che alla fine scelgano 3 italiani, perché sono eletti dai partecipanti agli esperimenti, secondo me è fa piacere. Un segnale importante. È un bel segnale. Italia, insomma, in qualche certo. modo. E anche per un modello proprio di operativo che è quello dell'INFN, che è effettivamente una struttura estremamente efficiente. Grazie Giubellino e buon viaggio. Auguri per il nuovo incarico e buon viaggio. A presto. E al CERN di Ginevra nel 1993 inventarono il software sul quale si regge tutta Internet e quindi anche Google. Barbara Galavotti vi parla ora di Google e di milioni di libri che stanno nelle nostre biblioteche italiane. È stato recentemente presentato un accordo fra Google e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In sintesi, Google renderà disponibile in rete 1 milione di testi italiani non coperti da copyright, in particolare quindi i grandi classici del passato. I testi saranno poi accessibili a tutti e a titolo gratuito. E soprattutto non saranno protetti da esclusiva, quindi potranno essere posti sui siti delle biblioteche o anche su altre piattaforme. Quindi si tratta di un nuovo passo in avanti verso la creazione di una biblioteca universale che sembra convenire a tutti. Ma è veramente così? In realtà la digitalizzazione del patrimonio letterario è una delle grandi imprese culturali del momento e sono in gioco posti di lavoro, eccellenze tecnologiche e anche, detto crudamente, guadagni. Ne parliamo con Giorgio Bertolla della Biblioteca Elettronica di Scienze Sociali del Piemonte. Buonasera. Buonasera. Cominciamo a dire che la disponibilità di testi in rete accessibili a tutti, ovunque, è per gli utenti una buona notizia. Però cosa succede adesso dal punto di vista pratico? Allora, in genere Google inizia un programma vastissimo e massivo di digitalizzazione, però a basso costo. Probabilmente non sarà il caso dell'Italia, perché si parlano di due scanning center, uno a Firenze sicuro e forse un altro a Roma. L'unica cosa, i laboratori saranno sicuramente precari e questa è una prima pecca. Per il resto Google non fa beneficenza, intende guadagnare dalla pubblicità ricavata dai passaggi in rete delle loro applicazioni. Nulla di male, ma da questo ne deve derivare sicuramente un guadagno anche per la struttura italiana. Ma Google sarebbe l'unico in grado di fare questo tipo di scannerizzazione? No, in giro per il mondo ci sono molti progetti, specialmente in Germania ce n'è uno molto importante, della German Digital Library, che sta partendo. Hanno aderito oltre 30.000 istituzioni culturali e cerca di competere con Google Book Search. Tra l'altro esiste una Open Book Alliance fatta da Microsoft, EU e Amazon per creare un free archive sempre di libri in alternativa a quello di Google, ma io credo che la competizione e la concorrenza siano il succo di questa iniziativa, insomma. In Italia cosa si fa? Cosa si faceva prima dell'entrata in gioco di Google? Allora, in Italia il portale internet culturale è la Biblioteca Digitale Italiana, che è una realtà che ha lavorato molto con progetti di grande valore, ma tutti molto parcellizzati sul territorio ed estremamente frammentati. Con l'iniziativa di aderire al progetto con Google ci potrebbe essere una razionalizzazione e un'efficienza nel sistema. Quindi, ricapitolando, in questo settore della digitalizzazione ci sono in gioco posti di lavoro, competenze tecniche, perché qualcuno deve produrre questi strumenti che servono per la scannerizzazione, e poi naturalmente guadagni in relazione a quanti utenti si collegano, quanti scaricano i testi. I testi, certamente. Il problema della posti di lavoro e della qualificazione, secondo me, è molto importante, nel senso che in Italia sarebbe giusto presidiare un campo che è sì maturo tecnologicamente, ma rimane strategico nel campo della economia culturale e anche proprio della salvaguardia dei beni culturali, nel senso che l'industria italiana ha dei poli di eccellenza nell'ottica, soprattutto a Firenze, e potrebbe facilmente creare un progetto che vada in parallelo a quello di Google Books, facendo altre cose, anche perché i libri che vengono scansionati nel progetto fatto tra Ministero e Google Books sono antecedenti al 1868 per questioni di copyright, per cui ci sarebbe, certo, un'altra marea di libri, carte geografiche, erbari, materiale storico da poter digitalizzare, mettere in rete e messo a disposizione di tutti. Ma tutto sommato, lei cosa si augura e cosa teme? Ma io penso che la cooperazione tra MIBAC e Google sia un'opportunità. In questo senso si è espresso anche l'IFLA, che è l'Associazione Mondiale dei Bibliotecari, e anche l'AIB, che è l'Associazione Italiana dei Bibliotecari. Ovviamente si tratta di creare innovazione soddisfando da un lato l'esigenza di diffusione della conoscenza e dall'altro comunque creando opportunità di crescita economica professionale, senza dimenticare l'esigenza economica di autori ed editori, perché sennò i libri non verrebbero scritti. In ogni caso ci sono possibilità, secondo me luce ed ombre, ma è sicuramente una iniziativa lodevole. Grazie Giorgio Bertolla, buonasera. Buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ve la ricordate la domanda del quiz? C'è qualcosa di più liquido dell'acqua? La risposta giusta è: molti liquidi sono più liquidi dell'acqua. Che cosa significa però che una certa sostanza è liquida? Significa, per dirla rapidamente, per intenderci, che scivola via più facilmente sulle superfici che attraversa rispetto ad altre sostanze, quelle non liquide, per esempio, ed ovviamente. Prendete la polenta, esce più lentamente da una pentola di quanto non faccia dell'acqua. Più rigorosamente sarà meglio parlare di viscosità, Ecco allora che il benzene, il cloroformio, il metanolo, anche l'ammoniaca liquida sono meno viscosi dell'acqua, escono molto più velocemente da un contenitore. Bassa viscosità però non significa che la sostanza sia più o meno densa. Il mercurio, sebbene sia 13 volte più denso dell'acqua, ecco per esempio a basse temperature, il mercurio è molto meno viscoso e esce più rapidamente da un contenitore. Questa era la risposta. Adesso Chiara Albicocco vi fa dormire, perché vi fa bene. Anzi, per essere più precisi, il sistema immunitario è felice se voi dormite. Ascoltate e capirete. Si è appena tenuto a Milano, al Centro Milanese di Psicanalisi, un convegno per ricordare la figura di Mauro Mancia. Mauro Mancia è uno dei padri delle neuroscienze, scomparso nel 2007. Si sono riuniti per questa occasione diversi studiosi italiani e internazionali per confrontarsi sui temi che uniscono la psicanalisi alle neuroscienze, e a questa alleanza il professor Mancia aveva dedicato quasi tutta la sua vita. Tra gli appuntamenti in calendario abbiamo deciso di riprendere qui in trasmissione e di approfondire una ricerca importante che è stata presentata al convegno e che mette in relazione il sonno e la risposta immunitaria del nostro organismo. Lo studio è stato pubblicato qualche mese fa su Nature e stasera noi abbiamo qui l'autore e anche il ricercatore che ha svolto lo studio. Buonasera, professor Imeri. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Lei è fisiologo presso il Centro di Ricerca Sperimentale sul Sonno a Milano, corretto? Sì, che è un centro della Facoltà di Medicina della Statale di Milano, sì. Ecco, allora, le conclusioni sembrano essere: più dormiamo, meglio stiamo e meno ci ammaliamo. Ora, io ho banalizzato al massimo, professore? Certo, finché parliamo di un sonno normale. Se parliamo di un sonno normale, sì, dormire potenzia la nostra risposta immunitaria e quindi ci fa stare meglio. Per esempio, se non dormiamo bene la notte seguente una vaccinazione, la risposta alla vaccinazione stessa non è così efficace. La cosa si complica, se vogliamo usare questo termine, quando invece il paziente o comunque le persone che voi avete studiato, sui quali avete fatto le sperimentazioni, sono affette da alcune patologie. Il nostro sonno si modifica quando noi siamo ammalati. Che tipo di sperimentazioni avete fatto? Siamo partiti da un'osservazione che è comune: quando noi abbiamo un'influenza, banalmente un raffreddore, una cosa di questo tipo, credo che sia capitato a tutti, non ci sentiamo particolarmente vigili, pronti a reagire, anzi di solito ci sentiamo un po' torpidi, sonnolenti, dormiamo un pochettino di più. Per lungo tempo queste sono state conoscenze che sono rimaste nel campo dell'aneddotica per la medicina e per la scienza. Ormai è una decina d'anni, invece sono state obiettivate, è proprio così. Quando siamo malati, in particolare quando abbiamo per esempio una patologia infettiva, il nostro sonno cambia, noi complessivamente dormiamo di più. All'interno di questo aumento del sonno è dovuto in particolare a un aumento del sonno non REM, il sonno in cui non ci sono i movimenti oculari rapidi, mentre invece si riduce il sonno REM, quello con i movimenti oculari rapidi. Però siccome complessivamente l'aumento del sonno non REM è quantitativamente maggiore, alla fine noi dormiamo di più, finché la patologia non è non è così grave da per esempio indurre un dolore che allora però ci sveglia in modo specifico. Se la patologia è molto grave, allora magari si attivano quei meccanismi dello stress nel nostro organismo, una catena di ormoni che si attivano l'un l'altro, a partire dall'ipotalamo, all'ipofisi, alle ghiandole surrenali, che è un meccanismo fondamentale che si attiva sempre in condizioni di stress. A quel punto un'infezione per esempio grave è anche uno stress per il nostro organismo, e tutti gli ormoni che ho nominato, che vengono secreti, che hanno nomi un po' complessi, comunque sono tutti ormoni che inducono il nostro risveglio. Però questo in condizioni estreme. Se la condizione è patologica, l'infezione è sì, ci sta colpendo, ma è tutto sommato sotto controllo. Un'influenza normale, diciamo. Esatto. Allora, in quel caso, ok. E viceversa, se noi dormiamo male siamo più suscettibili, cioè il nostro sistema immunitario può indebolirsi? Sì, per esempio la risposta a una vaccinazione, la risposta anticorpale, quanti anticorpi vengono prodotti in seguito alla stimolazione della vaccinazione, che è lo scopo fondamentale di una vaccinazione, ecco, questa risposta è ridotta se noi perdiamo sonno la notte successiva oppure anche non dormiamo bene nelle notti precedenti la vaccinazione stessa. Che tipo di studio avete fatto per capire questo? Siete andati a studiare gli ormoni? Beh, io le sto facendo un riassunto di tanti studi, di tanti colleghi, diversi. Beh, per esempio quello che citavo prima, è stato chiesto a una popolazione che andava in corso a vaccinazione anti-influenzale di dormire per esempio nelle tre notti precedenti la vaccinazione invece del normale, direi 7-8 ore, di dormirne circa 4. Poi a distanza di settimane si è andato a misurare il plasma nel sangue di questi pazienti, i titoli anticorpali, e si è visto che chi appunto aveva dormito non il numero regolare di ore ma un numero inferiore di ore aveva una risposta ridotta. E invece il vostro studio, quello che è stato pubblicato su Nature? Riguarda l'altro, questa relazione tra sonno e sistema immunitario appunto è biunivoca, quindi alterazioni del sonno alterano la risposta immunitaria, ma la risposta immunitaria altera il sonno. Quello che noi abbiamo indagato è quali sono i meccanismi che comportano queste alterazioni del sonno, e questi meccanismi sono legati al fatto che quando c'è un'infezione in corso nel nostro organismo ci sono segnali che dalla periferia, cioè dall'esterno del sistema nervoso centrale, che è il controllore di tutti i nostri comportamenti, le nostre funzioni fisiologiche, arrivano dei segnali, adesso sarebbe forse troppo lungo e complesso sì, illustrare attraverso le vie attraverso cui questi segnali giungono al sistema nervoso centrale, al cervello, però lì poi si attivano delle molecole che appartengono al sistema immunitario che vanno a interagire con i neuroni di controllo del sonno. E questo forse è un aspetto nuovo, perché queste molecole del sistema immunitario, le citochine, alcune citochine, per esempio l'interleuchina 1, una volta si pensava fossero prodotte attive solo a livello del sistema immunitario e che sistema immunitario e sistema nervoso centrale non si parlassero, c'era questo concetto che il sistema nervoso centrale è privilegiato dal punto di vista immunitario, cioè non parla, non risente di quello che accade nel sistema immunitario. E invece non questo è così. Concetto non è così, e vuol dire che dentro questo edificio che è il sistema nervoso centrale oggi dobbiamo tenere in conto che ci sono dei nuovi inquilini. Una volta pensavamo ci fossero solo le molecole classiche che i neuroni usano per parlarsi, i neurotrasmettitori, la serotonina, l'acetilcolina, e mentre invece oggi sappiamo che in questo edificio ci sono anche degli altri appunto inquilini che si parlano con questi neuroni, che si parlano con questi neurotrasmettitori, si dicono delle cose significative, delle cose importanti per il nostro corpo. Quindi queste molecole, una volta ritenute solo attive dal sistema immunitario, invece agiscono anche sul sistema nervoso centrale e direttamente sull'attività dei nostri neuroni, modificando il nostro sonno ma anche inducendo più in generale quel comportamento da malattia, sickness behavior, come si dice in inglese, per cui appunto siamo più sonnolenti, mangiamo di meno, riduciamo, no, un po' la nostra vita sociale, non ci viene voglia di uscire e vedere gli amici quando siamo ammalati, ma le citochine poi nella loro azione a livello del sistema nervoso centrale sono state anche chiamate in causa ormai da un po' di anni anche nella genesi di patologie quali sindromi depressive, per esempio. Ecco, sì, insomma, avete dimostrato che siamo ancora più complicati di quello che si pensava. Eh sì, perché sistema nervoso centrale e sistema immunitario sono senz'altro i due sistemi più complessi del nostro organismo, e se due sistemi complessi si mettono a interagire la complicazione sinergizza, però può anche aprirci viceversa delle finestre importanti per capire di più il nostro organismo. Recentemente, a pochi mesi fa, una delle riviste molto importanti nel campo delle neuroscienze, Neuron, ha dedicato un fascicolo monografico tutta la neuroimmunologia, affermando perché la neuroimmunologia può aprire delle nuove frontiere per la cura di patologie importanti, gravi, sì. E questo è anche un punto di vista scientifico che conduce noi stessi a qualcosa di unitario, non siamo più pezzi di apparato per cui il cervello e qualcosa di così corporeo con una reazione immunitaria non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, ma la visione scientifica di una medicina olistica che consideri l'essere umano in tutta la sua interezza e nel dialogo tra le diverse parti che costituiscono questa interezza. Certo, non divisi in compartimenti stagni, diciamo. Adesso abbiamo le prove scientifiche che non è così, perché il nostro sonno viene influenzato ovviamente dai nostri affetti, dalle nostre emozioni, dalle nostre attività cognitive, insomma dalla nostra mente. Basti pensare quanto appunto il nostro sonno varia in relazione, come dicevo, alle nostre emozioni, a quello che alla nostra attività mentale, e poi questo si riflette, certo, su qualcosa di così corporeo, certo, con la reazione immunitaria. Certo. Le vostre analisi stanno andando avanti? Sì, certamente, come quelle davvero di tanti colleghi, anche solo nel campo del sonno. Beh, quegli studi che per esempio citavo prima, che ci dicono che se non dormiamo bene la nostra risposta immunitaria è compromessa, sono stati fatti su volontari sani. Adesso per esempio alcuni colleghi stiamo cercando di capire se ci sono delle condizioni patologiche in cui noi non dormiamo bene, per esempio l'apnea ostruttiva da sonno, quanto questo possa compromettere il sistema immunitario per esempio di questi pazienti. Mm-hmm. Oppure dall'altro lato, a questo punto sappiamo abbastanza bene quali sono i meccanismi che fanno aumentare il sonno senza movimenti oculari rapidi quando abbiamo, per dire, un'influenza. Ci manca ancora qualche tassello per capire invece cos'è che riduce il sonno REM. Noi stiamo studiando quello, come stiamo cercando di capire il perché di queste modificazioni del sonno, perché dormiamo di più, perché aumenta un certo tipo di sonno e ne diminuisce un altro. Noi ipotizziamo che questo possa servire a farci montare la risposta febbrile, perché tutti noi pensiamo che la febbre non faccia bene, e quando abbiamo la febbre prendiamo farmaci antipirettici che ce l'abbassino, ma in realtà la febbre sarebbe meglio lasciarla, se non è alta sarebbe meglio, perché molti agenti patogeni si replicano meno bene se la temperatura del corpo è più alta, e il nostro sistema immunitario viceversa funziona meglio. È costruito bene. Sì. Va bene, grazie professor Imeri e davvero buon lavoro. Grazie a lei, ancora buonasera. Quindi dormire è un'attività fondamentale per la vita. Più dormiamo, meglio è. Ci sono un sacco di sogni da fare che con un po' di allenamento possono essere meglio della vita, no? Ma insomma, con questo inno al sonno si chiude la puntata di Mebius di questa settimana. Buona serata a tutti e a tutte e ci sentiamo la prossima settimana.